L'ascesa dell'estrema destra americana tra aspirazioni neonaziste e razzismo dichiarato, e poi il caso Regeni e gli oltre 300 morti in Sierra Leone. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. We condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry and violence on many sides. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati. Questo è Nessun Luogo Lontano. Siamo in diretta anche quest'oggi, giornata di Ferragosto, quindi auguri anche da parte nostra di buon Ferragosto. Gli auguri vi arrivano anche da Antonio Talia e Elisa Pancaldi, che sono in redazione e che erano presi dal lavoro frenetico quest'oggi. Stiamo ultimando gli ultimissimi contributi per una puntata che, ve lo preannuncio, lo avete sentito anche dalla sigla, sarà per la sua prima parte fortemente dedicata agli avvenimenti statunitensi. Avvenimenti che potrete commentare al 349-238-6666. Vi ricordo che il numero vale sia come SMS che come WhatsApp. Poi siamo su Twitter, potete cinguettare ai due indirizzi, Giampaz e il mio personale, ovvero Nessunluogo24. E poi siamo su Facebook, dove c'è anche la diretta. La pagina è Nessunluogolontano-Radio24, oppure sulla pagina Facebook di Radio 24. Allora, partiamo proprio dagli Stati Uniti, partiamo da Charlottesville, da quella manifestazione, poi contromanifestazione, da quell'auto lanciata sulla folla e da quella tardiva condanna del presidente Donald Trump. Da cosa erano nati quegli scontri? Dalla scelta di rimuovere una statua equestre del generale Lee, l'eroe militare della Confederazione, da Emancipation Park, nella città appunto di Charlottesville, siamo in Virginia. Quella decisione aveva già portato ad altre manifestazioni, solo che stavolta si è venuti alle mani, e anche pesantemente. Allora, innanzitutto cominciamo a raccontarvi dove siamo e che cos'è la Virginia. La Virginia, o Commonwealth di Virginia, è uno dei 50 stati federati che compongono gli Stati Uniti d'America e si colloca sulla costa est. Prima colonia inglese, fondata nel 1607 con Jamestown sulle sponde del fiume James, il nome Virginia è un omaggio alla regina d'Inghilterra Elisabetta I, la regina vergine. La Virginia è stata colonia di Sua Maestà fino al 25 giugno del 1788, giorno in cui è diventata il decimo Stato federato. Lo Stato del Vecchio Dominio, questo è il soprannome della Virginia, conta circa 8 milioni di abitanti, è costituita da 95 contee e 39 città autonome, e la sua capitale è Richmond. Altre grandi città sono Virginia Beach, Norfolk e Newport News. E lo Stato è a brevissima distanza dalla capitale federale, Washington. Alle ultime elezioni del novembre 2016, in Virginia vinse il Partito Democratico con Hillary Clinton, che ottenne il 50% dei voti contro il 44% del Partito Repubblicano di Trump. Allora, questa è la fotografia dello Stato degli Stati Uniti d'America in cui sono avvenuti gli scontri violenti. Ne ha fatte le spese una ragazza, una giovane attivista, e dove sono stati anche parecchi feriti, e dove si sono viste immagini che hanno, come dire, fatto saltare sulla sedia tanti osservatori, anche chi segue le vicende statunitensi da tempo, come Serena Danna, giornalista, La Lettura, Il Corriere della Sera. Serena, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano.

condannato quello che è successo utilizzando le parole giuste, poi ha ritwittato qualche ora fa l'attivista dell'alt-right che ha diffuso la bufala del Pizzagate, non so se gli ascoltatori ricordano, cioè una cosa peraltro gravissima successa l'anno scorso quando appunto si era diffusa questa bufala che una pizzeria di DC era un luogo in cui si ritrovavano dei pedofili affiliati al Partito Democratico, un tizio era entrato in pizzeria e aveva sparato e quindi ecco, Trump ha ritwittato poco tempo fa questo attivista dell'alt-right e quindi ecco, a dimostrazione del fatto che lui ha un atteggiamento sempre molto ambiguo, non c'è mai nulla, ecco, quando gli fanno la domanda specifica nega, perché tutte le volte in cui ha dovuto in qualche modo dichiarare il suo appoggio a il KKK, sì, appunto il suo sostegno all'alt-right, lì ha sempre negato, ma quando invece, diciamo, in generale l'ambiguità credo sia proprio il suo stile, no? Sì. Di comunicazione, quindi ricordate il famoso utilizzo di Pepe the Frog, la famosa rana verde che appunto semplice meme di internet, che però poi a un certo punto era diventata il simbolo appunto dell'alt-right. Donald Trump in qualche modo si impossessa di questo simbolo, poi gli fanno notare che questo simbolo è appunto legato all'alt-right, diciamo, ma io non lo sapevo, così, sì. No, c'è sempre un po' questo atteggiamento per cui faccio l'occhiolino a un certo tipo di elettorato, a un certo tipo di idee, di personaggi, e poi però me ne tiro indietro, però intanto è fatto, sì. No? Intanto il sostegno a l'occhiolino, ecco, è stato intercettato. Sì, sì. Fra le persone a cui fa l'occhiolino o ha fatto l'occhiolino Donald Trump, ci sono un po' di nomi che ricorrono sul web, perché diciamo la rete svolge una funzione importantissima per questi gruppi di estrema destra. Fra l'altro uno dei siti, il Daily Stormer, è stato recentemente bannato sia da Google che da GoDaddy, che l'hanno invitato a trovarsi un'altra piattaforma. Io fra l'altro poche ore fa non riuscivo a entrare nel sito, ce l'ho fatta invece pochi minuti fa, è un sito di ultradestra dove i membri si scambiano vari commenti su quello che accade, non solo di politica americana. Tra i nomi, beh, c'è Milo Yiannopoulos, per esempio, che guarda caso era proprio un ex firma di un sito, Breitbart, che adesso è diventato un po' in qualche modo un'icona, no? del movimento. Poi però c'è un'altra persona che è Steve Bannon, che forse è il vero catalizzatore di tutti questi movimenti. Poi c'è Richard Spencer. Aiutaci, Serena, a profilare almeno le due persone più importanti di questa galassia di estrema destra. Sì, sicuramente, ecco, Steve Bannon è il personaggio che ha dato, che ha istituzionalizzato in qualche modo, che ha portato alla Casa Bianca questa cultura, queste sottoculture che non nascono con internet, perché è evidente che il suprematismo bianco, appunto il mito del sud ferito, insomma, fanno parte molto di più del DNA degli Stati Uniti d'America, molto di più di quanto crediamo. Però è evidente che internet e l'elezione di Barack Obama hanno fatto da acceleratore a tutto questo, e Steve Bannon è riuscito comunque negli anni a diventare in qualche modo uno dei rappresentanti, dei simboli, tanto è vero che il suo sito Breitbart lui l'aveva definito la piattaforma dell'alt-right. Sì. In questi anni e anche durante la campagna elettorale di Donald Trump, Breitbart è stato dichiaratamente appoggiato l'estrema destra, dedicato a immigrati neri e messicani, articoli di tutti i tipi. Sì. E in qualche modo, ecco, quel sito è riuscito a convogliare una parte di elettorato a cui chiaramente Trump non poteva parlare in maniera diretta. Mettere portare alla Casa Bianca Steve Bannon è stato chiaramente un omaggio a quel tipo, certo, di gruppi, certo. Ma non è l'unico Bannon. Yiannopoulos, ecco, poi ha avuto una adesso secondo me sta già risalendo, no? Perché l'anno scorso poi ha avuto quell'incidente a un certo punto in cui hanno tirato fuori un nastro in cui lui faceva dei commenti pedofili, diciamo così, e qui è stato momentaneamente fatto fuori, ma dubito che resterà ai margini. Yiannopoulos è un un ragazzo molto molto furbo e intelligente che a un certo punto ha, ecco, ha iniziato a dare voce innanzitutto ad un odio che comunque è presente nella società americana, che è quella verso il multiculturalismo e verso il politicamente corretto, perché poi se ci sono, diciamo, dei temi che riescono a tenere insieme Richard Spencer con i sottocanali più estremisti di 4chan e con Breitbart e con diciamo la vecchia destra, questo, l'odio verso il multiculturalismo e l'idea che il politicamente corretto in qualche modo abbia rovinato gli Stati Uniti d'America, no? Sì. Ed è così poi che si difendono, perché lo stesso Yiannopoulos poi alla fine si presenta sempre come un provocatore, no? Quando va in giro per gli Stati Uniti a raccontare, a dire che bisogna fare una borsa di studio per i poveri bianchi, oppure che bisogna appunto condannare le femministe, sono il cancro della società. Poi anche lì a domanda diretta dice, beh, ma noi io lo dico perché sono stanco di questo politicamente corretto, perché sono stanco appunto degli imperativi morali della sinistra americana. Sì, sì. Serena, stai con noi, perché facevo riferimento alla mappatura di questi gruppi. Ascoltatela con me. Il Southern Poverty Law Center, un'organizzazione americana no profit impegnata in campagne contro le discriminazioni razziali, individua negli Stati Uniti la presenza di 917 gruppi di istigazione all'odio. Gruppi le cui convinzioni o pratiche sono volte ad attaccare o calunniare una specifica categoria di persone nel suo complesso. Il Ku Klux Klan è il più antico gruppo d'odio presente sul suolo statunitense. Fondato nel 1865 in Tennessee da un gruppo di veterani confederati, il Ku Klux Klan è stato per lungo tempo la principale confraternita segreta che inneggiava alla supremazia bianca. Sebbene sia storico l'odio nei confronti degli afroamericani, il Ku Klux Klan colpisce anche ebrei, immigrati, gay e lesbiche. Oggi si rifanno al KKK circa 130 gruppi. Oltre ai capostipiti del Ku Klux Klan, tuttavia, secondo il Southern Poverty Law Center, esistono oggi negli Stati Uniti ben 9 macro tendenze per classificare i gruppi che propagandano l'odio verso specifiche razze e categorie. Una categoria molto diffusa è quella definita Christian Identity. Al suo interno ci sono almeno 21 gruppi che professano un cristianesimo ultraconservatore, antisemita e razzista, che identifica nei popoli bianchi gli unici veri prescelti della Bibbia tradizionale. Alla categoria dei neonazisti appartengono 99 gruppi minori, che si ispirano all'ideologia di Adolf Hitler e diffondono l'odio per gli ebrei. I gruppi di tendenza white nationalist promuovono un'ideologia separatista e incentrata sulla supremazia della razza bianca. In questo, molto vicini alla categoria dei neo-confederate, che vogliono rinverdire la tradizione del separatismo razziale degli stati del sud. Esiste inoltre un fronte antimusulmano, composto da almeno 100 gruppi diversi e piccoli gruppi di separatisti neri che si oppongono all'integrazione, ai matrimoni misti e chiedono una legislazione esclusiva per la popolazione afroamericana. A chiudere il quadro arrivano 52 gruppi di tendenza anti-LGBT contro gli omosessuali e un altro centinaio di consorterie che propagandano altre forme di discriminazione. Si tratta, insomma, di un universo variegato e composito, spesso formato da individui che si affiliano contemporaneamente a più gruppi e che appare concentrato soprattutto negli stati del sud e nella cosiddetta Bible Belt. Secondo il Southern Poverty Law Center, nel 2011 l'attività di istigazione all'odio era diminuita, ma una campagna per le elezioni presidenziali mai così divisiva come quella del 2016 ha riportato al centro del discorso pubblico la presenza e le attività delle associazioni razziste. Allora, rieccoci, ben ritrovati cari ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, una prima pagina tutta dedicata ai fatti di Charlottesville in Virginia, dove una manifestazione di protesta per la rimozione della statua equestre del generale Lee ha portato poi a scaramucce, poi scontri e poi quell'auto che piomba sulla folla e uccide una giovane che era tra i manifestanti. Siamo con Serena Danna, giornalista del Corriere della Sera, che da tempo segue le dinamiche anche culturali statunitensi e ci sta aiutando a tratteggiare quelli che sono i nomi, gli aggregatori, per così dire, di una galassia. L'avete sentito anche dalla mappa che vi abbiamo appena fatto ascoltare, che è piuttosto ampia e piuttosto eterogenea. Serena Danna, prima di lasciarti al tuo Ferragosto, volevo in qualche modo capire con te quanto elettoralmente valgono questi gruppi, perché in parte mi hai già risposto e mi hai detto, insomma, che Donald Trump ha dovuto flirtare, mi scuserete, nella riduzione giornalistica con questi gruppi, ma il loro peso elettorale, considerando anche gli stati in cui sono, era realmente fondamentale? Cioè, non è che questo flirt di Trump potrebbe rivelarsi un po' troppo pericoloso anche per la sua carriera politica? Ma questo lo vedremo, secondo me, presto per tirare bilanci da questo punto di vista. È evidente che finora comunque la linea Bannon ha prevalso. Io ho sentito dire tante volte in questi primi mesi di governo Trump che si andava verso un ridimensionamento, no? Questa idea che Trump, una volta al governo, appunto, avrebbe iniziato a governare sul serio, avrebbe assunto, diciamo, sarebbe diventato un presidente. Ma tutto questo non è successo. Alla fine sembra invece che, appunto, altri personaggi hanno fatto un passo indietro, mentre invece quell'anima, appunto, più politicamente scorretta, più fastidiosa e anche, diciamo, pericolosa del suo governo e del sostrato culturale che lo sostiene in qualche modo alla Casa Bianca, invece continuano ad avere a primeggiare. Quindi sì. Ecco, io non credo onestamente che ci possiamo aspettare un ridimensionamento di certe tematiche, di certi gruppi, di certi attacchi, perché è evidente che, ecco, anche tutte gli elettori di Trump sicuramente condannano, ecco, i repubblicani. Io non credo assolutamente, diciamo, che i repubblicani vecchio stampo possono, ecco, concordare su queste, diciamo, scelte di odio, sì, o su questi temi. Però è anche vero che pur di riportare l'America agli americani, pur di riportare indietro le industrie, pur di lavorare su tutti quei temi che in qualche modo che hanno fatto in questi anni hanno, appunto, portato poi all'erosione del maschio bianco e non ai privilegi, ma in qualche modo a quelli che loro vedono come i diritti del maschio bianco, no? Perché poi il problema di base è un problema alla fine economico, sì, e culturale. Forse sono anche disposti ad essere tacciati di razzismo. Non è un'affermazione, però secondo me è il grande tema dei prossimi anni e sicuramente dei prossimi mesi, cioè vedere quanto poi l'elettorato americano, che è molto diverso dal nostro, nel senso, poi dagli americani, come abbiamo visto, ci si può aspettare sempre delle grandi sorprese, fino a che punto sono disposti, appunto, pur di vedere determinate cose, a rinunciare a certi valori poi di libertà e che finora comunque hanno sempre trionfato, diciamo, negli Stati Uniti. Grazie mille, Serena Danna, Corriere della Sera, per essere stata con noi per questa fotografia prettamente politica di ciò che è avvenuto a Charlottesville. Adesso poi entreremo meglio nelle pieghe della società americana, che merita sicuramente attenzione. Grazie mille, Serena, buona giornata, buon Ferragosto, buon lavoro. Allora, 349-238-6666, come immaginavo, anche questo tema scatena una serie di commenti, però io non posso leggere i commenti se vi sono espressioni non ripetibili al microfono. Ho detto, non è questa la trasmissione giusta, mi sa che avete sbagliato radio e trasmissione. Però posso rispondere a chi dice: l'Islam è il gruppo che più propaganda odio di qualsiasi altro gruppo, ma loro non sono nella lista, vergogna, dice questo ascoltatore. Gentile ascoltatore, stavamo parlando di Stati Uniti, stavamo parlando di gruppi neonazisti, l'Islam non è un gruppo, l'Islam è una religione, e quindi vergogna di che? E poi, quasi sullo stesso tenore, forse lo stesso ascoltatore, non ce la fate proprio a non vomitare odio contro Trump. Perché insieme al KKK non condannate i suprematisti neri di Black Lives Matter? Beh, molto semplicemente, intanto non stiamo vomitando odio contro Trump, ma stiamo raccontando quelle che sono le sue maldestre dichiarazioni, molto spesso in ritardo. Stiamo raccontando una galassia di movimenti con i quali evidentemente Trump ha flirtato, e rispetto a questo flirt gli stessi repubblicani gli hanno tirato la giacchetta e l'hanno costretto a rimettersi in riga. Non mi risulta che i suprematisti neri, come li chiama il nostro ascoltatore di Black Lives Matter, fomentino odio. Allora adesso facciamo una piccola pausa e poi vi presento il prossimo ospite. Nessun luogo è lontano. Ritrovati, questo è Nessun Luogo Lontano. Continuiamo a parlare di Stati Uniti, continuiamo a parlare di quello che è accaduto a Charlottesville. Scusate, mi si è inciampata la lingua. L'abbiamo fatto intanto con Serena Dan nel Corriere della Sera, che ci ha meglio spiegato, come dire, i rapporti di forza, soprattutto politici, tra questi gruppi di estrema destra, l'amministrazione di Trump. È venuto però il momento di raccontare meglio il perché questi gruppi esistono e quali bisogni, quali istanze della società americana vanno a intercettare. Ci soccorre in questa analisi il professor Stefano Luconi, che insegna storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Padova. Professor Luconi, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, professore, è difficile, come dire, fotografare questi eventi, ma soprattutto spiegarli. Serena Danna poneva l'accento su un paio di, come dire, di leve, chiamiamole così. Da un lato, condizioni economiche, evidentemente, per certe fasce della popolazione che non sono ritenute eque, insomma, quindi un disagio economico. Cos'altro può spiegare questi gruppi che sembrano fiorire e che intercettano bisogni di una certa fascia della popolazione statunitense? Ma indubbiamente c'è la ricerca di un capro espiatorio per tutta una serie di problemi che sono già stati segnalati, ovvero sia come la ripresa economica nei due mandati di Obama non ha portato a una distribuzione della ricchezza, quindi ci sono ancora dei gruppi che restano ai margini e sono quelli che più sono soggetti alla ricerca di una sorta di nemico interno che spieghi le loro difficoltà economiche, la loro marginalità sociale. Chiave, diciamo così, storica, non perché questo sia il mio mestiere. Gli anni 30 sono stati caratterizzati da una forte diffusione di simpatie naziste, di antisemitismo negli Stati Uniti. Gli anni 30 sono gli anni della Grande Depressione, quindi al di là dell'odio di razza, l'odio di razza molto spesso è un pretesto per giustificare, per trovare una causa di come il sogno americano abbia perduto di incisività, e ci sono alcuni settori della società statunitense che non pensano più a un domani migliore dell'oggi, ma temono che il domani sia peggiore delle loro condizioni attuali. Sì. Professor Luconi, stia con noi, perché abbiamo appena raggiunto, poco prima di accendere i microfoni per questa diretta, Edu Bayer, che è un fotogiornalista freelance che era proprio a Charlottesville per il New York Times, e così racconta quella serata di venerdì e poi la marcia di sabato. I went to Charlottesville last Friday. We got the evening, and then we went to the first torch march held by. Allora, Edu Bayer dice: sono arrivato a Charlottesville la sera di venerdì, sono andato a seguire la prima manifestazione con le torce della cosiddetta alt-right, cioè alternative right, la destra alternativa. Ma lui dice si tratta di base di suprematisti bianchi. Era una marcia improvvisata, racconta il fotogiornalista. Ci saranno state più o meno 300 persone che hanno marciato nel campus dell'Università della Virginia. Thomas Jefferson Monument. Avevano delle torce, durante la marcia sono finiti davanti al monumento a Thomas Jefferson, così qualche studente ha iniziato a protestare contro di loro e c'è stato qualche tafferuglio. Sabato era il giorno del raduno, tutto doveva iniziare a mezzogiorno, ma intorno alle 10 del mattino erano già iniziati gli scontri. Charlottesville è una piccola cittadina, un po' sonnacchiosa, racconta il fotogiornalista, quindi era impossibile che i vari gruppi non si fronteggiassero. E c'erano praticamente tutti i gruppi che rappresentano la cosiddetta destra alternativa. Avevano bastoni, torce, cercavano di inscenare di continuo piccole manifestazioni che i manifestanti del schieramento opposto contrastavano. Quindi c'è stata qualche altra rissa, con pugni e bastoni, qualcuno è caduto a terra, un po' di sangue, ma fino a quel momento nulla di serio. Così racconta ancora il fotogiornalista che abbiamo raggiunto da poco, dalle 10 alle 12 si sono concentrati tutti davanti alla statua del generale Lee, che è la statua che ha scatenato tutti questi eventi perché era un generale confederato. Gli scontri sono durati fino a mezzogiorno, allora la polizia ha cancellato l'evento, erano previsti dei discorsi dei rappresentanti dell'Alternative Right, ma è stato tutto cancellato. Allora gli scontri hanno iniziato a diffondersi in tutta la città, è arrivata anche la Guardia Nazionale, la polizia con gli elicotteri. La tensione è salita, gli scontri sono fatti più seri ed è lì che è successa la tragedia, quando un ragazzo del fronte di estrema destra si è scagliato sulla folla con la sua auto. E infine c'è un aspetto interessante che racconta Edu Bayer, fotogiornalista spagnolo, lo ricorda, era Charlottesville per il New York Times. C'erano in giro persone armate, possiamo dire si trattava di milizie, e da spagnolo, racconta il collega, sono rimasto impressionato nel vedere gente armata pesantemente nel mezzo degli scontri. Era molto pericoloso. Essere onesto, ho visto più gente dell'estrema destra armata, alcuni avevano addirittura i volti dipinti col nero fumo in stile marziale, ma ho visto anche alcuni ragazzi del fronte antirazzista che portavano armi addosso. La Virginia, conclude il fotogiornalista, è un cosiddetto open carry state, quindi è legale portare armi, ma devi portarle in giro, in piena vista. Allora, questo era il racconto e la fotografia, è il caso di dirlo perché è un fotogiornalista, Edu Bayer, lì per New York Times, in presa diretta di quello che è accaduto in quei due giorni. Siamo col professor Luconi, che insegna storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Padova. Professor Luconi, queste milizie armate che girano con fucili in braccio, ma anche dalla parte opposta, racconta il giornalista, c'erano armi in bella vista, è motivo di stupore probabilmente per noi europei, però dobbiamo ricordare che l'America, come dire, sulle armi ha delle maglie estremamente larghe. Sì, ha delle maglie estremamente larghe perché, secondo alcuni costituzionalisti, il secondo emendamento della Costituzione garantisce il diritto di detenere e di portare armi. In realtà non c'è una unanimità su questa lettura del secondo emendamento, perché secondo alcuni costituzionalisti, secondo alcuni giuristi, quando si parla del secondo emendamento si ignora il preambolo, che dice più o meno: essendo necessaria per la sicurezza di uno Stato libero una milizia ben organizzata, allora il diritto di portare, di tenere le armi non potrà essere violato. Cioè, in realtà, secondo alcuni, questo diritto non è un diritto individuale, è un diritto collettivo, cioè è il diritto degli stati a mantenere un corpo armato per la propria difesa, non è il diritto dei singoli cittadini di portare le armi. Siccome tutti sappiamo che la National Rifle Association è una lobby potentissima, di qui una forzatura, secondo alcuni, di questo diritto costituzionale, che poi spiega anche non soltanto quello che è successo a Charlottesville, spiega anche la facilità con cui ogni tanto ci sono delle vere e proprie stragi nella società americana. Sì. Professor Luconi, non è strano vedere simboli nazisti negli Stati Uniti? Non è un strano paradosso storico? Dunque, la sua osservazione è più che ragionevole e razionale. Per certi aspetti riflette anche una dichiarazione del senatore Orrin Hatch, che è un arciconservatore repubblicano dello Utah, che ha perso il fratello maggiore durante la Seconda Guerra Mondiale, combattendo contro la Germania nazista, e che ieri ha dichiarato: non, mio fratello non è morto combattendo contro Hitler, per vedere i nazisti negli Stati Uniti. In realtà la cosa forse è un pochino più complessa, nel senso che se pensiamo un po' alla vulgata, alla banalizzazione dell'ideologia nazista come difesa del primato della razza bianca, allora questa lettura risulta per certi aspetti compatibile con la visione che hanno i white supremacists dell'America come nazione di bianchi, cioè come società di derivazione europea, in cui oggi gli afroamericani, domani gli ispanici, dopodomani forse gli asiatici, rappresentano una sorta di aliens, non nel senso di non cittadini statunitensi, sì, ma proprio di corpi estranei. Sì. Quanto, secondo lei, professor Luconi, l'amministrazione Trump dovrà farsi carico di questo, chiamiamolo disagio, chiamiamolo ferite, perché alla fine stiamo parlando di una questione razziale mai superata nella società statunitense? Cioè, ci saranno, secondo lei, obbligati tentativi di riconciliazione? Ma come diceva prima la giornalista del Corriere della Sera, il Partito Repubblicano non è coeso su questo aspetto. Ci sono delle componenti, che sono anche la componente maggioritaria, che auspicano una riconciliazione, che spiega anche perché Trump, dopo una prima dichiarazione estremamente ambigua, poi sia stato di fatto costretto a condannare l'alternative right, sì, la destra razzista. Il Partito Repubblicano non vuol perdere il voto degli afroamericani, non lo vuol perdere almeno quel voto corrispondente grosso modo a una classe media, una classe medio alta, e quindi sarà costretto per fortuna mi verrebbe da aggiungere, a indurre a una marginalizzazione di questi gruppi estremistici. Però va anche aggiunto che gli anni dell'amministrazione Obama, con la presenza di un presidente afroamericano, hanno favorito una declinazione dello scontro tra partiti in termini di contrapposizione razziale, perché tutti coloro che si esprimevano contro le politiche, contro le proposte di Obama, hanno trovato una forte facilità nel dipingere la loro posizione in termini di contrapposizione tra bianchi e neri, e su questa contrapposizione ha largamente attinto Trump, perché quando Trump parla e parlava di Make America Great Again, in realtà fa riferimento a un'America particolare, cioè un'America bianca di ascendenza europea. Grazie mille. Professor Stefano Luconi, lo ricordo, insegna storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Padova. Anche per lei un buon Ferragosto, buona giornata, buon lavoro, professore. Grazie, buon Ferragosto anche a voi. Allora, adesso il traffico sulle strade italiane, poi ultima pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Allora, tra poco voltiamo pagina e apriamo una pagina dedicata al caso Regeni. Se avete letto i giornali, la notizia campeggia su tutti i principali quotidiani, non solo italiani ma anche stranieri, perché la decisione del governo di rinviare un ambasciatore al Cairo ha scatenato una serie di polemiche. Però vi leggo un ascoltatore che si firma un ascoltatore bianco, dice e risponde all'ascoltatore che citavo prima: la traduzione letterale del movimento Black Lives Matter è le vite delle persone di colore contano, il movimento non è per la supremazia ma per l'uguaglianza tra le persone di qualsiasi etnia, cosa che in America è ben lontana dall'avverarsi. Basta vedere, ricorda questo ascoltatore, gli episodi di violenza gratuita della polizia contro le persone di colore. Noi dedicammo un'intera puntata di Nessun Luogo Lontano proprio l'anno scorso. Se a Charlottesville ci fossero state milizie armate di colore a manifestare, sicuramente la polizia non avrebbe avrebbe atteso così tanto nel intervenire. Trump non avrebbe atteso 12 ore per denunciare i fatti, e conclude dicendo: si istruisca, caro ascoltatore. È vero, non c'è dubbio, e l'ha sottolineato sia Serena Danna che il professor Luconi, che le due amministrazioni, sia quella Obama che quella Trump, non hanno risolto alcuni serissimi problemi dell'economia statunitense. Evidentemente ci sono dei disagi che questi gruppi intercettano in maniera piuttosto efficace. Però vi dicevo che dobbiamo cambiare pagina, parliamo del caso Regeni. Parliamo del caso Regeni, perché sono passati 18 mesi dal rapimento, la tortura e la barbara uccisione del ricercatore dell'Università di Cambridge che stava svolgendo una ricerca universitaria sui movimenti sindacali al Cairo. Ne parliamo perché, vi dicevo, l'Italia ha deciso di rimportare l'ambasciatore al Cairo. Gianpaolo Cantini riaprirà una rappresentanza diplomatica appunto nell'importante paese nordafricano, e immediatamente sono fioccati i commenti. Da un lato c'è chi dice: attenzione, l'Italia ha perso l'unico strumento di pressione che aveva per esigere verità sul caso Regeni. Questa apertura sarebbe stata dettata dall'invio da parte della procura egiziana di una serie di documenti, di atti in arabo che ancora dovranno essere tradotti, e probabilmente le immagini di sorveglianza dell'uscita della metropolitana all'ultimo luogo in cui era stato visto Giulio Regeni. Il governo dice: mandare un nostro rappresentante diplomatico aiuterà a risolvere la questione. C'è invece una serie folta, nutrita schiera di commentatori che dice: attenzione, perché così non va, stiamo anteponendo la realpolitik al rispetto dei diritti umani, soprattutto al rispetto della verità. È con noi Antonio Marchesi, che è presidente di Amnesty International Italia. Presidente Marchesi, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, io ricordo che Amnesty International, la sezione italiana in particolare, fin da subito si è schierata per avere immediata verità sul caso Regeni. Sono passati tanti mesi, è incredibile come depistamenti, sviamenti delle indagini ancora non abbiano permesso di fare luce. La posizione di Amnesty International, presidente Marchesi. Ma guardi, il nostro obiettivo finale non cambia, che è quello di ottenere verità per Giulio, anzi direi verità e giustizia. Quindi non, la nostra campagna non è per tenere l'ambasciatore italiano lontano dal Cairo. Il problema è che questo era fino a questo momento uno strumento di pressione, e l'Italia non ne ha adottati altri in questi 18 mesi. Se avesse adottato una strategia più articolata, comprensiva di altri strumenti di pressione, forse diciamo questa scelta di ieri sarebbe stata più comprensibile. Ma al momento sembra invece che sia una resa, come è stato giustamente detto dai familiari. Non capiamo come sia possibile che l'invio dell'ambasciatore italiano al Cairo aiuti alla soluzione di questo caso. Il governo continua a ripeterlo, però in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane, non ha mai spiegato come. Quindi da questo momento in poi noi chiederemo con regolarità al governo di dimostrarci che questa sua tesi, sostenuta appunto con decisione, ha un qualche fondamento. Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia, è utile anche ricordare che il governo di Al-Sisi non si è certo distinto per il rispetto dei diritti umani, perché sono migliaia le persone incarcerate arbitrariamente, giornalisti, giudici, avvocati, che i numeri sono decine, centinaia, che spariscono nel nulla oppure vengono trovati morti alcuni giorni dopo. Un commento anche su questa generale, come dire, situazione che è preoccupante dal punto di vista dei diritti umani. Sì, è molto preoccupante. Diciamo, il caso di Giulio Regeni è un caso unico per certi versi, perché si tratta di un cittadino italiano, ma per altri versi assomiglia moltissimo a quello di centinaia, se non di migliaia, di altre vittime egiziane della repressione. Quindi Amnesty International, evidentemente essendo un'organizzazione per i diritti umani, si batte anche per i diritti degli egiziani. anche per loro noi chiediamo, diciamo, verità e giustizia, quindi da questo punto di vista è una campagna per i diritti umani in Egitto, per il diritto della famiglia di Giulio di Regeni di sapere cosa è successo al loro figlio, al fratello, insomma, e però anche per i diritti degli egiziani. Grazie mille, Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia, buona giornata e buon lavoro anche a lei. Grazie a voi, buon lavoro. Allora, 349-238-6666, c'è chi maliziosamente, ma credo giustamente, perché alcuni commentatori hanno sottolineato questo aspetto, dice: l'Egitto ha una forte influenza sulle Cirenaica e sul generale Haftar, non credo sia una coincidenza che Selenti l'ha presa proprio in queste settimane. Ora che Haftar deve, prosegue l'ascoltatore Giovanni, seppellire l'ascia di guerra sventolata contro le nostre navi, non c'è dubbio che l'Egitto, lo sapete, è alleato del generale Haftar, che è il secondo governo libico, comanda sulla Cirenaica, su Bengasi, era quello che tuonò venti di guerra sulla missione italiana nel caso fosse arrivata in acque libiche, poi è stato ridotto a più miti consigli. È evidente che l'Egitto svolge un ruolo molto molto importante, non solo dal punto di vista politico ma anche economico. L'Italia è un partner dal punto di vista commerciale molto molto importante. C'è la questione per esempio del turismo, è un'industria del turismo che è totalmente crollata anche per i motivi di sicurezza interna, perché sul Mar Rosso vi sono stati vari attacchi da parte di gruppi terroristici, e quindi i commentatori più maligni e più smaliziati dicono: attenzione, perché questo tentativo di normalizzare una situazione potrebbe appunto spiegare il perché si sorvoli su invece quello che dovrebbe essere la ricerca della verità sul caso Regeni, ma non solamente. Adesso abbiamo gli ultimi minuti prima di chiudere, andiamo in Sierra Leone. E il suono che sentite è il suono di quella valanga di fango che due giorni fa si è abbattuta a Regent, che è un sobborgo di Freetown. Pare che un'intera collina, un frammento di collina sia franata sulle case. Immediati, ma come dire, esigui i soccorsi della macchina hanno cercato di recuperare le persone intrappolate. La conta per il momento parla di almeno 300 morti e migliaia di persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Abbiamo raggiunto, ed ecco noi in diretta, Gennaro Spadaro, che è logista, cioè tra i responsabili dell'organizzazione delle attività di emergency a Freetown, che ha una struttura ospedaliera e che ha dovuto fronteggiare l'emergenza e l'accoglienza anche di alcuni feriti. Gennaro Spadaro, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Allora, Spadaro, ci racconta la presenza di emergency a Freetown e poi che cosa avete fatto, come vi siete dovuti adoperare per curare i feriti e anche ricoverare i cadaveri che sono stati poi trovati. Sì, allora, emergency c'ha un ospedale di circa 110 posti letto ed è presente in Sierra Leone dal 2001, post guerra civile. Ci occupiamo di pediatria, chirurgia e ortopedia, quindi è da un bel po' che siamo presenti qui sul territorio e collaboriamo un pochettino con tutti gli stakeholders locali. Sì. Ieri, sì, l'emergenza che riguarda ieri è stata fronteggiata da noi, organizzandoci per ricevere più feriti possibili. Alla fine della giornata il bilancio è stato di 50 feriti ricevuti in OPD, che sarebbe il nostro pronto soccorso, di cui 15 sono state le ammissioni e 11 sono stati operati nelle sale operatorie. Sì. Due casi molto gravi adesso sono ricoverati in unità intensiva, niente, l'ultimo arrivo è stato, noi praticamente quando siamo pronti per questi eventi ci prepariamo a fronteggiare quella che chiamiamo la mass casualty. Ieri è stata fortunatamente è stata molto lenta, non c'è stato un arrivo massiccio di feriti, è stato un arrivo abbastanza distribuito durante la giornata, sì. Quindi ci ha anche permesso di operare al meglio e di fronteggiare al meglio qualsiasi ogni paziente. Sì. Spadaro, la interrompo, sì, perché dalle sue parole insomma si evince l'impegno che avete profuso, che avete messo in campo. Quanto invece, sì, la macchina sanitaria del paese è stata in grado di rispondere a un'emergenza come questa? Se può sinteticamente, che siamo quasi in chiusura. Guardi, allora, per i dati che arrivano non sono certi, comunque si parla dell'ospedale pubblico Connaught Hospital che ha ricevuto all'incirca 20 ammissioni e naturalmente noi eravamo anche lì con loro, avevamo dato la disponibilità di riferire dei feriti anche nel nostro centro. E di più invece il Connaught Hospital si è operato per ricevere tutti i corpi, le persone morte. Sì. Grazie mille. Più di 100. Sì, prego. Dica. No, finisca, siamo proprio in chiusura, 30 secondi. Sì, si parlava di circa ieri sera 150 persone ricevute al Connaught Hospital. Sì. Era Gennaro Spadaro, logista per Emergency da Freetown, Sierra Leone. Grazie mille per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, Spadaro. Grazie, buona giornata a voi. Allora, poi c'è chi al 349-238-6666 ricorda, attenzione, non solo il turismo in Egitto, ma anche i mega giacimenti di gas offshore che sono gestiti da Leni. Tutto vero, siamo quasi in chiusura, quindi i titoli di coda. Con i quali ringrazio Antonio Talia con Elisa Pancaldi in redazione, Valeria Bernardi in regia che ha dato musica e ritmo a questa puntata, voi che siete stati all'ascolto anche in questa calda giornata di Ferragosto. L'appuntamento è per questa sera, la replica alle 20, poi domani alle 6 e poi domani alle 16 di nuovo. Nessun luogo sarà lontano. Un saluto intanto da Gianpaolo Musumeci.